Questa è Radio 24 che trasmette la passione. Ogni Fox 24 come il calcio di un pallone. Siamo tutti convocati in quest'Italia. Scrivi Radio 24 sulla tua maglia. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Dunque ragazzi, fuori i fazzolettini, anche Franco Piantanini in redazione, Roberto Scaltritti in regia, ce l'hanno già in mano per salutare Eric Toyer che parte, si porta via la presidenza dell'Inter, tornerà però il 28. Ciao tifosi de Inter, see you soon. See you soon, Mr. Toyer. Intanto però qualcun altro potrebbe arrivare, sempre dall'Asia. Scrive oggi il Sole 24 Ore, dunque fonte estremamente attendibile. Si parla di un magnate cinese, Wang Jianlin, per Forbes l'uomo più ricco della Repubblica Popolare Cinese, non uno qualunque. Ciao Pierluigi Pardo. Buongiorno, come va? Altri occhi amandolo in arrivo, il nostro calcio ha grande appeal in Estremo Oriente. Finché c'è Asia c'è speranza, mi verrebbe da dire, no? Sì, sì, sì. Poi qui la fonte è estremamente credibile, il personaggio in questione, come hai ricordato un istante fa, è estremamente liquido, diciamo. Estremamente, quindi, molto, molto liquido, molto. E quindi insomma è evidente che l'indiscrezione sia di quelle capaci di comunque autorizzare grande interesse. Sai cosa ha detto anche Unicredit? La gestione pallottiana fino a questo momento è stata una gestione attenta, oculata, anche virtuosa dal punto di vista del marketing, del merchandising, di tutta una serie di elementi di branding estremamente noiosi da dire, ma insomma importanti, sì, per una società. Però dal punto di vista tecnico sicuramente non è stata fin qui, anche se la Roma è stata testa della classifica, insomma nei primi due anni non ha ancora comunque non è a Brown. Certo, sai cosa risponde Unicredit? Perché Jianlin sarebbe interessato a rilevare la quota di Unicredit, appunto, non smentisce, attenzione, non fa come sempre fa ad esempio Mediaset sulle Fininvest, sulla cessione del Milan, non smentisce Unicredit, ma anzi dichiara disponibilità a valutare opportunità di valorizzazione, linguaggio ostrogoto che vuol dire, tradotto, vabbè, può interessarci, signor Jianlin, trattiamo, visto che lei è un uomo molto liquido. Sì, sì, è una chiave interessante, perché sì, in questi casi di solito si smentisce anche quando, no? Quindi quando si smentisce sembra quasi un'implicita conferma del bravo, fatto che qualcosa c'è. Senti Pierluigi Pardo, ieri sera sei andato tutto intappato in smoking nero al galà del Gran Galà del Milan? No, non sono andato. No, no, avevi da fare? Sì, avevo una scena, ma sono dettagli. Però insomma è stata chiaramente una serata importante anche dal punto di vista simbolico, perché sì, c'erano Barbara Berlusconi, Adriano Galliani, sorrisi, strette di mano, clima comunque la scena di molto patinato, quindi adesso al di là di tutto la scena di una fondazione è sempre non tanto la scena che ci piace, ma insomma la fondazione è sempre comunque qualcosa di importante che si pone gli obiettivi. Sì, quindi fate i bravi, tutti allineati. Però insomma dal punto di vista nostro quello che ci interessa un pochino di più è stata, mi sembra, una serata che comunque ha offerto degli spunti, soprattutto simbolici, ripeto, perché poi alla fine la verità la scopriremo solo dopo che andrà a Battisti. Quali sono questi spunti simbolici a cui ti riferisci? L'abbraccio tra le Divie Galliani, Balotelli che dice no, per ora sto bene qui, non penso a gennaio, penso alla prossima partita, quella col Bologna, no scusate, giochiamo col Genoa. Sì. Col Genoa. Sì, no, lui ha detto col Bologna, ha detto adesso gioco col Bologna, col Bologna si gioca l'Inter, ma vabbè. No, ma poi potrebbe essere anche in qualche modo un indizio. No, allora sicuramente l'abbraccio è la cosa più interessante, perché con tutto rispetto, ovviamente non è ieri sera, non è stato ieri sera, non è in questi giorni che si decide il futuro societario del Milan, quelle sono scelte che stanno nettamente al di sopra di una serata simbolica come quella di ieri. Io credo che insomma quello che riguarda Balotelli sia abbastanza poco indicativo, nel senso che sappiamo che Balotelli per nulla è indicativo, che ti doveva dire? No, secondo me in questa serata non c'è nulla di indicativo in valore assoluto, è tutto glamour, bei vestiti, sorrisi fotocopiati. Posso dirti, è la dimostrazione che il Milan ci sa ancora fare, almeno da questo punto di vista, no? In un momento come questo, nel quale ci potevano essere elementi di fastidio, di nervosismo, di conflittualità, comunque riuscire a rappresentare un'immagine di famiglia patinata, glamour e unita come quella che abbiamo visto ieri sera, è comunque, io te lo dico da persona che più o meno fa comunicazione della vita, è comunque una buona dimostrazione. Certamente. Da questo punto di vista questo va sottolineato. Insomma, ieri sera non sono volati gli stracci, ma non potevano volare. Non potevano volare, però sono stati bravi. Senti, o la situazione è meno complicata di quello che può sembrare, oppure sono stati davvero bravi. No, è complicata, altro che. 800 24 00 24, numero verde, un sacco di cose da dirvi e un sacco di opinioni da chiedervi. Beh, oggi leggo i giornali tutti copioni, perché tutti i giornali di oggi, italiani naturalmente, incoronano Cristiano Ronaldo per il pallone d'oro. Noi già detto ieri, salgono tutti sul nostro carro. No, Noi non l'abbiamo detto una settimana fa con Ancelotti collegato. Ieri, eccetera, eccetera. Io ti ribadisco che bisogna capire per cosa si sta votando. Allora, se si vota il pallone d'oro così come era qualche anno fa, quindi legato ai trionfi, secondo me quest'anno lo merita Ribéry. Perché secondo me fra i giocatori top è stato quello che comunque è stato più decisivo nella conquista, in un anno dispari, quindi in un anno senza europei e mondiali, della competizione principale che c'era in Europa e quindi nel mondo. Se valutiamo invece il valore assoluto del giocatore, così come è stato fatto negli ultimi anni, portando a una serie, a una sequela di vittorie di Leo Messi, sicuramente io quest'anno voterei per Cristiano Ronaldo. Ti dico che nel 2013, ti do un altro numero perché ce ne sono un sacco, nel 2013 solo Real Madrid, Barcellona, Borussia Dortmund e Bayern di Monaco hanno segnato di più come squadre rispetto a Cristiano Ronaldo. Pazzesco. 800 24 00 24, come sai abbiamo il traffico, poi caro Pierluigi Pardo ti porto al mare, vieni? Certo, poi in quella città lì mi puoi portare qualsiasi giorno perché l'amo. Va bene, se danno un altro pallone d'oro a Messi non lo danno a Cristiano Ronaldo, premesso che a me il pallone d'oro non piace tantissimo come premio in generale, però io e Pardo andiamo a fare un sit-in in piazza del Duomo a Reggiolo. Vabbè, posso venire pure io, se potessimo unirci anche qualcosa di alimentare, visto esatto, che ho avuto il piacere. Se ci consigli anche un ristorante. Non mancherebbe. Tutti convocati. Ma quella faccia un po' così, quella espressione un po' così che abbiamo noi prima di andare a Genova. E ogni volta ci chiediamo se quel posto dove andiamo non ci inghiotta e non torniamo più. Domani sarà 50 anni dalla morte di John Kennedy, un grande personaggio che comunque nella sua vita, con le idee e i detti che ha fatto, comunque sono ancora attuali. Gli prenderò in prestito tre frasi per farvi capire quello che dirò alla squadra, per quello che ci servirà per rialzare la testa, per raggiungere l'obiettivo e per quello come mi sento io oggi. Il Kennedy è il momento quando è diventato il presidente degli Stati Uniti, ha detto al suo popolo: non chiedetevi cosa può fare il vostro popolo per voi in questo momento, ma chiedetevi cosa voi potete fare per il vostro paese. È quello che io voglio dire ai miei giocatori: non chiedete in questo momento cosa può fare Sampdoria per voi, ma chiedetevi cosa voi potete fare per la Sampdoria, per lei. Scimmia di luce, di follia. Ma insomma, Sinisa Mihajlovic si presenta così, non sottotono, non con classico la palla rotonda, addirittura citazione di JFK, queste sue parole appena presentato, è in corso la presentazione di Mihajlovic. Saluto Giampiero Timossi, anima genovese, ciao. secolo XIX. Ciao, buongiorno. Berlanditi, Mossi, dove sei, dove ti trovi, geolocalizzati, dai, che Genova mi piace sempre. È stato un avvio fantastico, Paolo Conte, poi le parole di Kennedy e poi purtroppo si introduce Pardo, sente da lontano anche la voce di Pardo. No, dove sei? Non ti sei tutto dalla vita. Sei a Savona? O sei a Genova? No, sono a Genova. Che te ne frega, Pier? Ma lo so, io sono mezzo ligure di adozione. Sei anche mezzo ligure. Hai mille problemi. Genova, la categoria dello spirito. Dei suoi presunti amici calciatori non trova dove dormire la notte. Sì, esatto. Da qualche vecchio amico. Ho dormito anche a casa di Dimossi a Savona. Con colazione la mattina dopo, classica colazione ligure, che secondo me è un abominio, lo dico con rispetto, che è fugassa e caffè, che sono due cose che non c'entrano. Come pensa ai nostri, ai vostri ascoltatori, cosa può interessare di questa? No, no, a loro molto. Focaccia e caffè, cioè come gli inglesi che fanno negli stadi inglesi. Per me è perfetto focaccia e caffè. A me piace. Ma c'è tanta gente. Cosa volevi che capisca? 800 24 00 24, il numero verde. Non rappresentarmi come un nemico del popolo ligure. Io amo la Liguria e Genova, però ho questo problema con la focaccia col caffè. Guarda, cioè, caffè il vero Pierluigi. Il caffè chiama il cornetto. Preferisci il bombolone con la crema? Dai. Senti, Genova comunque mai banale, eh? Soffre, si deprime, alza la testa, vola spesso con la velocità del libeccio. Genova ritrovato il vecchio generale Gasp. 3 vittorie consecutive e adesso c'è il sole continuo a Genova anche quando piove. Sì. La Samp i genovani vedono il sole, vedono il grifone volare nel sole. Deglio Rossi via, licenziato, arriva qualcosa di diverso, ma di profondamente legato al passato. Sinisa Mihajlovic che cita appunto Kennedy. Beh, cosa già vista a Firenze questa staffetta, questo tandem? Ha funzionato abbastanza, Giampiero. L'ho vista a Firenze, però c'è davvero grande fiducia in Mihajlovic. Credo che alla fine sia ben riposta. C'è stato durante questa conferenza stampa, la quale avete fatto, anche ancora in corso, che avete fatto ascoltare, c'è stato anche un collegamento telefonico del presidente della Sampdoria Garrone, che è impegnato lontano da Genova per lavoro, e ha ribadito davvero con forza come questa sia stata una sua scelta, una decisione presa dopo qualche titubanza. Aveva pensato in un primo momento a Zeman. Ma ci aveva pensato davvero? Sì, aveva pensato davvero a Zeman. E poi le due opzioni erano Zeman e Mihajlovic. Alla fine credo che abbia scelto con forza questo allenatore anche guardando gli ultimi risultati dei due tecnici, sì. non particolarmente brillanti quelli di Zeman, più da decifrare quelli di Mihajlovic, e Mihajlovic è presentato alla grande. Ha avuto un po' di tempo, perché c'è stata un po' questa vicenda, mi sembrava un po' una sceneggiata in qualche modo, perché insomma Mihajlovic poi l'ha detto, aveva deciso, ma non voleva giustamente offendere la federazione del suo paese, la federazione serba, quindi sembrava che l'operazione non potesse concludersi, invece di fatto era già conclusa. Ha avuto un po' di tempo ed è stato bravo, perché ha fatto un discorso, come dicevi tu, assolutamente non banale. Ha citato Kennedy, vabbè, questo in questi giorni forse è anche comprensibile, no? Siamo vicini alla triste ricorrenza dell'anniversario della morte del presidente degli Stati Uniti. Io non so, avevo un dubbio, pensavo che dicesse "io sono un sampdoriano", citando un'altra frase, quella davanti al muro di Berlino, no? Berlinese siamo tutti, invece ha scelto la frase del giorno dell'insediamento di Kennedy, ma poi ha fatto anche altro. Ha fatto un lunghissimo elenco di quelli che sono stati grandi, sono stati davvero tanti grandi giocatori, attaccanti, portieri, centrocampisti e grandi allenatori della Sampdoria. È davvero la galleria è profonda. Peccato che quelli non ci siano più, che la Sampdoria di oggi sia abbastanza scarsa, secondo me. Pardo, questo sì, è giusto. Non mi ha sorpreso più di tanto questa esternazione che mediana, perché io penso che Mihajlovic abbia di questi colpi di talento e di personalità. E poi non dimentichiamoci che comunque lui fino a 2 giorni fa allenava una nazionale non straordinaria dal punto di vista tecnico, ma certamente molto importante dal punto di vista ovviamente delle pressioni di una, anche di un certo nazionalismo che sono tutte le parti, quindi che lui si senta un condottiero e che abbia avuto sicuramente dal punto di vista simbolico una responsabilità molto importante, su questo non ci sono dubbi, e credo che sia quello che serva alla Sampdoria. Ora c'è da dire che anche la scelta di Dario Rossi era stata una scelta fatta diciamo investendo molto sulla qualità dell'allenatore, no? Credo, Giampiero lo potrà confermare, che Dario Rossi fosse il più pagato della Samp. Ora non tutto si misura dai soldi, però insomma, ecco, quindi l'investimento, il quarto allenatore più pagato della Serie A, mi perso, ma almeno ecco. Questo il problema è che poi giocano i giocatori, la Samp non ne ha, prima, però insomma serve personalità, ecco, da questo punto di vista io non credo ci siano grandissimi dubbi. Serve personalità perché la squadra mi sembra onestamente modesta, ma soprattutto mi sembra che abbia questo problema principale, una certa difficoltà nel trovare i leader, con Castaldello che è abbastanza in difficoltà, con Palombo che ovviamente è un leader stanco, anche se sicuramente recuperato rispetto al periodo in cui non giocava, però insomma non gli si può chiedere di essere quello di 7-8 anni fa, con un attacco che è appeso a Eder e a qualche raro spunto di Gabbini. Insomma, mi sembra una squadra che a gennaio dovrà fare parecchie cose importanti, con un portiere che è sempre un punto interrogativo. Insomma, non vorrei continuare nell'elenco perché sennò è lungo. Però insomma la realtà mi sembra questa. Senti Giampiero, invece sono assolutamente d'accordo. Sei d'accordo, sì. Vabbè, ci troviamo tutti qui d'accordo, vorrà dire qualcosa. Si investe sull'allenatore, ci vorrebbe qualche giocatore. Un segnale incoraggiante, comunque la volontà di investire su un allenatore pieno di entusiasmo, di carisma, che comunque sì. Vuole assolutamente far bene, spinge a credere che anche a gennaio sul mercato Garrone vorrà intervenire. Senti, un'ultima cosa Giampiero, il Genoa invece penso sia quanto di peggio possa capitare per il Milan in questo momento. Sì, la penso come te. C'è qualche problema di formazione, soprattutto un elemento chiave credo della rivoluzione di Gasperini, che è stato Kučka, no? In questo nuovo ruolo da centrocampista centrale a incursore d'attacco. Gasperini lo ha definito il nostro Hamsik, in effetti questa è la volontà del tecnico, però risolto questo dubbio, il Genoa arriva alla 3 vittorie di fila, cosa che non succedeva da parecchi anni, e soprattutto credo che abbia in testa una convinzione importante, quella che la classifica in questo momento dice la verità. Il Genoa sta davanti al Milan perché ha più qualità. Sì, ha più qualità, Milan, ha certamente gioca meglio. Che si merita perché fa giocare spesso, sono anche decisivi giocatori come Birsa e Conta, senza togliere nulla a questi due ottimi giocatori, però sono giocatori che a Genova trovavano spazio spesso in panchino, addirittura in tribuna. Certo. No, questa no. È la realtà. Togliamo pure qualcosa a questi giocatori che non sono da Milan, nessuno dice niente, non è un peccato mortale, sono giocatori molto modesti e per il Milan sono... Bene, perché Constant era un giocatore che piaceva da anni a Gagliani, questo è vero, sono stato testimone a Milano di alcuni incontri tra Gagliani e il procuratore, insomma l'agente che si occupava di Constant, che è Oscar Damiani, e davvero Gagliani aveva mostrato interesse per questo giocatore. Birsa aveva fatto bene in Francia, ma poi si è completamente... Sì, dai, di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di giocatori che, come abbiamo detto molte volte, non giocavano nel Milan vero, nemmeno l'amichevole del giovedì a Busto Arsizio. Grazie Giampiero! Grazie a voi! Viva Pardo! Viva Pardo! Viva la Bugatta col caffè! Ma c'è anche chi scrive, Roberto da Modena, che a Modena Reggio Emilia è gnocco fritto e caffè, fate un po' voi! La prossima colazione, ragazzi, grandissimo rispetto. Grandissimo rispetto. Io amo lo gnocco fritto e amo moltissimo la focaccia o fugassa. È l'accostamento tutto salato che mi lascia un po' perplesso. Ma insomma, ognuno c'è suo problema. Dormirai per strada la prossima volta. Ciao, Pardo. Ciao. Giampiero. Pier, stai lì. Borsa. Sì. Seguiteci su Twitter, @tutticonvocati. Convocati. Allora Pierluigi Pardo, qui siamo molto molto collegati, interattivi, sempre online. Sono stato avvertito da un comune amico, di cui che non ti dico chi è, Andrea Sorrentino, di SMS, che tu ieri sera alla gala del Milan non sei andato perché non eri invitato. Sì, no, non ero invitato, non sapevo neanche, in realtà ho saputo ieri sera che c'era, no, che Sorrentino. Allora saluto il collega Sorrentino che ieri invece, che è il nostro ascoltatore ormai praticamente abbonato, sì, ricordandogli quanto è bello alle 7 di mattina comprare The Expressen a Stoccolma, lui capisce in codice, c'era questa gag che facevamo sul clima che c'era, avendo passato il nostro mondiale con parecchi colleghi svedesi, noi amiamo la Svezia per carità, però insomma, ci interrogavamo su questa sfida della stampa svedese alle 7 del mattino, sì, su quanto fosse bello uscire con la copia sotto il braccio. Lo so, è una cosa che non fa ridere tanto me e lui, tutta Italia, quindi chiedo scusa a tutti gli altri. Però, poi tu ami la Svezia, ami Genova, ami Bari. Allora hai un po' troppi amori, sei peggio di quella signorina. Le priorità Genova, proprio piazza core, come dicono a Napoli, e la Svezia vabbè. Ovvie ragioni. Sei il solito maniaco, no, assolutamente no, non c'entra assolutamente. Sei peggio di quella signorina che era sposata con Maxi Lopez e che adesso sta con Icardi in questa vicenda che trovo di un pessimo gusto, terrificante. Mi fa schifo questa vicenda. Posso dare un consiglio, se Maurizio, io se ci sente Sorrentino, forse ci sentirà anche Maurizio Icardi. WhatsApp. Lascialo ragazzi. Stare, no, ma no, lascia no, stare. C'è WhatsApp, non mandatevi le cose su Twitter, le cose private su Twitter, farite, capite? Cioè, Twitter è pubblico, WhatsApp è privato, cioè mandatevi gli SMS oppure WhatsApp, no? Ma fatevi i fatti vostri, noi fate quello che volete, noi siamo sempre per l'amore, comunque. Sì. Sì, siamo sempre per l'amore, ma magari con un po' più di buon gusto, di intelligenza. Sempre. Gianni Siracusa, buongiorno. Buongiorno. Ci sentiamo per la prima volta, io ero un assiduo di Garanzini. Bene. Non me ne voglio. Ma perché devo volergli? Allora, la chiamo per la questione della squalifica del giocatore del Palermo, sì, per aver colpito, fermato un tiro con un braccio in un'azione di gioco. È stato squalificato con la prova TV. Allora, era calcio di rigore, probabilmente c'era pure l'espulsione. Però utilizzare la prova TV in questo caso, sì, non apre il campo a tutta una serie di viene riconosciuto un errore tecnico fatto dall'arbitro, si dovrebbe ripetere la partita. Sì, e questo non mi sembra sia il caso, però il discorso non che ci sono dei... utilizzare in un fallo di gioco, sì, l'arbitro non ha visto va bene, era il rigore, ma non era una parata, un qualche cosa. Ma Gianni, ci sono però, lei sa, ci sono dei parametri precisi entro i quali la prova TV è ammissibile, altri sì, parametri però che la escludono. L'ascoltatore per me ha ragione. Uh-huh. L'ascoltatore ha ragione perché è stato punito per comportamento antisportivo. C'è già il DS del Palermo Perinetti che ha parlato di una norma applicata in maniera eccessiva, forzatamente, e già ha preannunciato ricorso. C'è un codice di giustizia sportiva che dice che se tu volontariamente colpisci il pallone con la mano puoi rientrare nella condotta antisportiva, sì, e quindi possono esserci provvedimenti sanzionatori. Però io sono completamente d'accordo con l'ascoltatore, perché un conto è se l'arbitro lo vede in campo, lo punisce dal calcio di rigore, dall'espulsione, e siamo tutti d'accordo. Ma tu pensi ci sia una interpretazione un po' troppo ampia di questa norma? Assolutamente. Anche perché, come dice giustamente l'ascoltatore, a questo punto rientriamo in una riapriamo un file, sì, di applicazione e applicabilità della prova televisiva che diventa enorme. Quindi che può fare giurisprudenza, naturalmente. Non so se fa giurisprudenza, mi sembra potrebbe farla, e quindi mi sembra veramente qualcosa di clamoroso quello che è successo. E sono rimasto a bocca aperta anch'io. Antonio Treviso. Buongiorno Antonio. Buongiorno, grazie di essere convocato. Grazie a lei, è in cantina? Sento male? Sì, purtroppo sì. Sento. Per lavoro. Ho capito. Ma un attimo che mi sposto. Oh, grazie. Dalla cantina passiamo al piano sopra. Dove siamo? Dove adesso lei? Si geolocalizzi, come dice Pardo. Mi sente? Sì, come no? Ah, ecco qua. Niente, vorrei tornare sul discorso del pallone d'oro, che qua stiamo discutendo che lo vince Ronaldo, lo vince Messi, lo vince Ribéry, stiamo parlando comunque di giocatori di altissimo livello. Poi fargli una domanda a lei a Pardo. Ma Summer, che c'è del cavaco il pallone d'oro? Niente. Niente? Mattia Zammer era stato il porticato più clamoroso della storia. Sì, di pallone d'oro adulterato. Non c'entrava niente naturalmente con il pallone d'oro quel giocatore. Insomma, poi le regole sono cambiate un milione di volte. Però è importante, è interessante, perché di quel pallone d'oro ci ricordiamo tutti e ci ricorderemo tutti secula seculorum, no, Pier? Sì, l'ha vinto se non sbaglio nel 96, che era l'anno in cui la nazionale vinse l'europeo in Inghilterra. Mm-hmm. Ed era in quella nazionale lì, è stato un po' un riconoscimento, cioè un po' cannavariana come situazione. Sì. Ecco, l'esempio mi viene in mente più simile a quello di Cannavaro dopo il mondiale 2006. Sì, viene in mente anche a me, con la differenza che Cannavaro era in quel momento il probabilmente più forte difensore del mondo, quindi un senso più compiuto ce l'aveva. Esattamente in quel 2006, secondo me, più di quello che aveva fatto Zammer nel 96. Però era la vecchia interpretazione del pallone d'oro, che chiaramente era una storia completamente diversa, nel senso che si guardavano i titoli in bacheca alla fine dell'anno, e il giocatore che aveva vinto di più e che era stato più decisivo in relazione ai titoli vinti veniva dal pallone d'oro. Da qualche anno è cambiata completamente l'interpretazione, secondo me in maniera folle, e quindi ogni anno ci sono questi giornalisti che dicono: chi è il giocatore più forte al mondo? Messi, Messi. E questo è quello che succede da qualche anno a questa parte. Sono molto curioso di vedere, anche perché, come abbiamo detto ieri, come un pezzo di stampa internazionale sta sottolineando, pare che sia stato riaperto la possibilità di votazione, e questo potrebbe favorire Cristiano Ronaldo riaperte le urne. Ho un messaggio molto strano prima di andare a Genova da Stefania. Attenzione, sì. Il messaggio è questo: Ronaldo è il giocatore normodotato più forte al mondo. Messi non è neanche paragonabile agli altri, fa un altro sport, e la storia recente del calcio che lo dice. Detto questo, la mia classifica per il pallone d'oro è Ribéry, Ronaldo, Messi. Insomma, che significa normodotato? Perché Messi non è normodotato? Mi sembra abbastanza una sciocchezza questa. Anzi, se c'è una cosa che mi piace di Messi è proprio la sua, tra virgolette, normalità fisica. Poi in realtà questi fenomeni, anche quando non sono alti 1,95 m, non hanno muscoli clamorosamente evidenti, hanno comunque caratteristiche fisiche spaventose. Maradona, no? il famoso blef, no? L'idea, la grandezza letteraria di Maradona sarà il fatto che Maradona è un ragazzo non eccessivamente alto, nel quale tutti si possono identificare, no? Che ti dà il senso della identità del calcio, uno sport nel quale se sei alto 1,95 m ti mettono in porta e poi diventa un fenomeno. Se sei alto 1,65 m puoi fare il furetto, come diceva Mitsul, e diventare il più forte al mondo, come di Maradona. Ma in realtà Maradona aveva un fisico pazzesco, quindi non te ne accorgi a vederlo ad occhio nudo, aveva dal punto di vista delle caratteristiche fisiche, della forza muscolare, del baricentro, una qualità enorme. Ma anche dell'esplosività, cioè Messi è uno che prima devi prenderlo e poi devi anche provare a stenderlo, e non è una cosa semplice, e non è una cosa che io e te possiamo fare abitualmente, o l'ascoltatore di prima può fare abitualmente. C'è anche Roberto da Modena che ricorda giustamente come pure il pallone d'oro 96 Igor Bielanov era un bel pallone di legno, sì, altro bel palloncione di legno. Traffico poi, ovviamente, Stefania da Genova. Steffi, stia lì. Tutti convocati. Signora Stefania, sampdoriana, vero? No, assolutamente. Ma ci mancherebbe altro. Genova, sia chiaro. Ma favorevole alla focaccia dentro con il caffè la mattina, oppure no? Allora, le dico subito, sono una sua ascoltatrice, e quel signore che interviene con lei non mi piaceva. Adesso che ha parlato male della focaccia col caffè, proprio non lo posso vedere. Ha parlato anche bene di Genova, però, questa è una memoria selettiva, signora. Ma lui, secondo me, la focaccia la mette nel caffè, invece si mangia la focaccia tutta e poi si beve il caffè. Certo. Quindi l'errore è quello lì. Ma il mio maestro è Timossi, che non mi ha fatto capire niente. Vabbè, no, non dia la colpa, è lei che si deve rivedere. Beccati questo asciugo capelli alla Ferguson. Prego. Detto ciò, io sono una genuana storica, e quindi sono molto felice della situazione della Sampdoria e l'aspetto in Serie B. E poi sono anche una sostenitrice, e le ho anche scritto dell'Entella, che vorrei che una volta lei guardasse un po' la Lega Pro. Noi abbiamo una squadra straordinaria che è l'Entella, Virtus Entella, che sta facendo un campionato meraviglioso, e quindi il mio sogno è il derby Entella-Sampdoria in Serie B. Questo è il tifoso, che non è sicuramente uno sportivo e un colto, però... No, è coltissimo, e ha pieno diritto di questo, cittadinanza, ma ci mancherebbe. È questo proprio questa cosa che noi genuani ci motiva adesso di aspettare la Sampdoria, a vedere la Sampdoria in Serie B. L'Entella promossa. Tutti a Chiavari. Certo. Ecco, e poi vedere l'Entella in Serie B, e la pregherei di, se vuole, sì, sondare un po' questa squadra, questa società straordinaria che sta facendo beneficenza, porta su ragazzi da società non pagate, li manda a scuola, eccetera, eccetera, ma dica al suo amico che quando toglie la focaccia poi venga a fare un giro a Chiavari a vedere com'è l'andazzo. Siamo molto orgogliosi, il Genoa sta andando bene, l'Entella pure, la Sampdoria va male e non c'è. Che peccato, E la focaccia va mangiata dopo il caffè. O prima del caffè, non dentro al caffè, non facendoci la zuppa. Non dentro al caffè, che poi l'olio rimane tutto. Ma cosa vuole che ne sappia Pardo, signora Stefania? Io non pucciavo la focaccia nel caffè, giuro che... Magari non c'era proprio questo meccanismo, prima la focaccia poi il caffè, magari facevo un boccone e un sorso, però basta. La focaccia nel caffè, va. Le grandi inchieste, le grandi rivelazioni, Pardo, tutti basta, convocati. Basta. Abbiamo un ospite importante, importantissimo, Arrigo Sacchi, buongiorno. Buongiorno. Ciao mister, come va? Di che parliamo? Di piadina? Tu prendi la piadina col caffè la mattina oppure no? No. Io parlerei di Prandelli invece, mister, che ha detto in Brasile sarà come Stati Uniti 94. Beh, speriamo di sì, ma lui lo diceva in relazione al caldo che troveranno. Sì. Sarà una difficoltà certamente in più, ci auguriamo che faccia almeno lo stesso risultato, insomma. I grandi giocatori... Arrigo sa che hanno sempre un peso specifico sempre maggiore, è per questo non è così, no, perché altrimenti lei mi deve spiegare perché nel 2010 la Francia è venuta a casa subito con Ribéry, il Portogallo è venuto a casa subito con Cristiano Ronaldo, Messi è tornato a casa con l'Argentina, Rooney è tornato a casa con l'Inghilterra, vede, il calcio purtroppo, dico purtroppo per molti che fanno fatica a andare oltre l'uno, è uno sport di squadra con armonia, e l'armonia è data dal gioco. Dopo ci sono i giocatori che sono interpreti, e possono essere Robert De Niro o Zanubrio, un po' di differenza, però se anche nella cinematografia lei ha una trama scadente, anche Robert De Niro non avrà. Però mister, io non resisto, visto che insomma Arrigo Sacchi, diciamo, proprio chiaramente ha cambiato il calcio filosoficamente. No, non ho cambiato nulla, perché guardi, vabbè, però insomma ha contribuito alla percezione che fosse un'orchestra e non un singolo a vincere le partite, che ci fosse una filosofia di gioco, che ci fosse un sistema, insomma, vabbè, sono cose che si leggono ormai anche sui libri di testo. Quindi non resisto però alla tentazione di chiederti chi è il De Niro di quest'anno. Nel senso, se dovessi votare per il pallone d'oro, chi voteresti? Beh, adesso stiamo vivendo tutti emotivamente il momento d'oro di Cristiano Ronaldo, che poi non è solo un momento, un giocatore che sicuramente da molti anni che è ad altissimo livello, anche se si è sempre più specializzato. Quando era il Manchester United a me piaceva di più, adesso sfrutta le sue enormi qualità, ma devo dire, ripeto, un giocatore che sono da tanti anni che è a tantissimo livello, e voglio dire anche una cosa: quando io ero direttore al Parma noi cercammo di comprarlo, che lui era un ragazzino e giocava nello Sport di Lisbona, gli offrimmo 11 milioni, solo che poi credo che il Manchester United gliene desse 16, mi pare. Sì, non ricordo questa storia, ma lei ha visto mai un giocatore con l'istinto del killer davanti alla porta che ha Cristiano Ronaldo? Beh, Messi non mi sembra che l'abbia di meno, oppure l'altro Ronaldo era un fenomeno incredibile perché correva ancora meno di Cristiano Ronaldo, tanto che in una partita Real Madrid-Valencia, io ero allora direttore del Real Madrid e noi avevamo una strumentazione che valutavamo tutte le corse che uno faceva, gli scatti, tutte queste cose qua, e dissi: Ronny, ma anche Casillas ha corso più di te. E lui correva pochissimo, però era un fenomeno veramente straordinario, avevo dei tempi di smarcamento, una capacità di dribbling uniche. Questo Cristiano ha bisogno più della velocità. Ronny ti scartava anche da fermo. Sì, questo è il mio fatto. Di Casillas è eccezionale, veramente. non stento a crederlo. La Juve, io insomma, chi segue Mediaset Premium, Italia 1, Canale 5, insomma, sa che Sacchi è un grande estimatore in questi ultimi anni del lavoro di Conte e del processo di europeizzazione della Juve, no? Che diventa una squadra internazionale. Bravo, di europeizzazione. Però su questo volevo chiederti, il discorso del modulo in qualche modo incide, nel senso che non è così. Intanto si dovrebbe dire sistema di il gioco, sistema, certo, sì, sistema di gioco non è così fondamentale, però incide in piccola parte nell'utilizzo dei giocatori nelle loro posizioni più idonee. Faccio un esempio: se tu hai due ali e una punta e fai giocare le ali come centrocampisti, molto probabilmente li metti a disagio. Quindi l'utilizzo, la Juventus è una delle poche squadre, c'è da dire anche questo, non sempre lo fa, ma quasi sempre, è una delle poche squadre che difende correndo in avanti. Certo, in questa è molto moderna. Arrigo, io prometto che la invito un'altra volta perché parlerei con lei per ore. Adesso abbiamo il giornale radio, devo salutare Arrigo Sacchi, devo salutare Pierluigi Pardo. Ci sentiamo dopo il giornale radio 800240024. Grazie. Tutti convocati. Tutti convocati come ogni giorno fino alle 15:20. 800240024 è il numero verde. Allora, altro argomento che vorrei trattare, quello del nuovo stadio di Milano. Ci sarà? Non ci sarà? Sarà uno per due? Una casa per due? Sarà una casa solo per l'Inter? Insomma, Galliani ieri ne ha parlato. Ma non è una sfida, è un'area interessante, un'area certamente dove abbiamo interesse anche noi come l'Inter e vedremo, insomma. Adesso naturalmente l'area sarà disponibile dopo l'Expo, quindi nel 2016, e quindi c'è tempo per fare tutti i ragionamenti del mondo. Anche troppo tempo come al solito. Intanto Let's Dance, come avete sentito in sottofondo. Anche Maroni ha parlato di quest'area e della possibilità di un nuovo stadio a Milano. No, non è un problema, se il Milan è interessato io sono solo felice, naturalmente. Il presidente dell'Inter non mi ha detto siamo interessati, faremo la proposta. Ha detto siamo interessati ad un investimento di questo tipo, però abbiamo bisogno di approfondire la questione. Ecco, appunto, il presidente dell'Inter esattamente cosa dice? Cioè l'ex presidente dell'Inter. Prima si è accennato al fatto che c'è anche questa possibilità, soprattutto ha esposto quello che fosse l'Expo e chiuso. Questo era importante. Quello. La mia sensazione è che prima di vedere uno stadio nuovo funzionare a Milano passerà ancora qualche lustro con buona pace di Toir. Voglio essere pessimista, ma temo di non sbagliarmi. Giorgio Ferrara. Pronto? Pronto. Buona giornata a lei e ai suoi radioascoltatori. Anche a lei. Senta una cosa, ma niente, io, a parte il fatto che conosco la sua avversità verso il pallone d'oro, per cui probabilmente sfonda una porta aperta, io sono un tifoso interista. Da Giorgio, non è avversità, è semplicemente una cosa che mi appassiona fino a un certo punto, quest'anno ecco, di più, ma anche perché non si capiscono bene i criteri, ogni anno cambiano, ogni anno sono bizzarri, e poi da questo punto di vista la mia idea non è lontana da quella molto estremista di Arrigo Sacchi, cioè è bizzarro dare tutta questa importanza ad un premio individuale in un, nel contesto di un gioco che è per eccellenza collettivo come il calcio. Vabbè, e comunque in aggiunta a, a quanto ho detto adesso, io non riesco neanche a spiegarmi, pur io essendo un tifoso interista, pur non avendo visto di buon occhio il passaggio di Pirlo prima al Milan poi alla Juventus, sì, come mai un giocatore come Pirlo, che a mio avviso è, uno, è stato uno dei migliori giocatori del periodo, ha vinto tutto, ha vinto più di Messi, ha vinto più di Ronaldo e non ha mai vinto il pallone d'oro. Mm. Io cosa vuole che le risponda? Secondo lei io ho una risposta, no? Non ce l'ho. Io non ce l'ho semplicemente perché sono d'accordo. Cioè, allora, se con questo premio intendiamo incoronare quello che in quel momento è considerato il giocatore più forte del mondo, abbiamo avuto almeno 3-4 occasioni in, nelle quali il pallone d'oro poteva serenamente essere consegnato ad Andrea Pirlo, no? Ecco. Non è che siccome lo danno i francesi e i francesi non sono tanto, tanto amici degli italiani. No, ma non è questione, perché poi c'è la giuria, poi io continuo a pensare che ci siano vari giochi di sponsor e partnership e queste cose dietro a, dietro l'assegnazione di questo pallone che è d'oro, sì, ma gonfio di denaro, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, la verità è che non c'è molta ipocrisia intorno ai criteri attraverso i quali appunto il pallone d'oro viene assegnato. Io molto semplicemente direi, va bene, qual è il giocatore più forte del mondo in questo momento? Qual è stato il giocatore più forte del mondo quest'anno? È stato Cristiano Ronaldo? È stato Ribéry? È stato Messi? È stato Pirlo? Il pallone d'oro lo diamo a lui, a prescindere da, quasi prescindendo dai risultati della squadra, e questo è una contraddizione in termini. Però estremizziamo pure questo tipo di criterio, almeno tutto diventa un po' più semplice. Roberto da Savona. Sì, buongiorno. Buongiorno Roberto. Buongiorno, intanto giochiamo col pallone d'oro anche lei? No, assolutamente. Mangiamo la focaccia? La focaccia a Savona la inzuppano nel cappuccino, non la bevono il caffè dopo. Comunque, la inzuppano nel cappuccino? La inzuppano nel cappuccino, assolutamente. Allora quasi sono d'accordo. Perché vivo a Savona da 20 anni, sono piemontese, sono inorridito da sempre di questa cosa, ma è così. Farò presente a Pardo, un giorno gli faccio uno scherzo, lo porto a Savona a colazione e così. Va bene, e poi lo lascio lì. Va bene. Ascolti, ho giocato 2 minuti a fare il tecnico di calcio, le chiedo cosa ne pensa. Prima cosa, vedo tanti gol su calcio di punizione. Barriera, Palombella, gol, sembrano dei rigori oramai. Mi domando come mai nessuno pensi a cambiare un po' l'impostazione delle difese, ad esempio mettere un lungo sul secondo palo, oppure dividere la barriera in due, metà destra, metà sinistra e portiere al centro. Per chi non ridisce, ricordo che lo fece Elenio Herrera ai miei tempi. Sì. Seconda domanda veloce, si parlava di Pirlo, il più grande giocatore italiano, anche lì gioca a fare il tecnico, mi domando come mai non lo marchi quasi mai nessuno, lo fanno marcare dal centravanti che arretra, queste menate, io gli metterei un terzinaccio di quelli cattivi appiccicato a 10 centimetri e secondo me non capisco perché nessuno lo fa, gli lasciano sempre un campo di manovra come un giorno molto lontano. Lei magari si ricorderà, fece Nils Liedholm con Platini, facendo giocare Filippo Galli a centrocampo, Filippo Galli che salutiamo come sempre, facendo giocare Filippo Galli a centrocampo con il numero 8 e incollando la Michel Platini, ne uscì una partita di rara bruttezza, finita 0-0, ma in quel frangente, in quella mossa, in quella intuizione vinse il vecchio Nils Liedholm, contravvenendo tutte quelle che erano le sue certezze, le sue abitudini. In realtà Pirlo provano a marcarlo in vari modi, magari non con il terzinaccio, magari con il centrocampista, magari appunto dandogli fastidio nel momento in cui prende la palla per rallentarlo gli attaccanti, insomma, a marcare Pirlo ci provano. Quanto alle punizioni, la mia impressione è che siano diventati tremendamente bravi quelli che le tirano, quindi non c'è moltissimo da inventarsi sulla composizione delle barriere. I tiratori di calciatori di punizioni oggi riescono a disegnare delle parabole veramente ai limiti dell'umano e della perfezione, quindi bravi loro, io direi. Con le barriere si può fare poco, poi vediamo barriere che si aprono come nel caso del Milan a Parma abbiamo avuto esempi recenti, e beh, allora quelli sono chiari errori difensivi. Gabriele, provincia di Palermo, poi andiamo all'Aquila. Sì, buonasera Carlo Genta. Buonasera Gabriele. Non sono d'accordo, diciamo, al pallone d'oro alla persona singola, diciamo, per me mi ricordo una vecchia frase del signor Galliani che diceva: il pallone d'oro lo vince chi vince tutto, cioè Coppa Italia, Scudetto, Coppa Intercontinentale, Coppa dei Campioni, insomma deve vincere tutto. Sì. Quello è quel che a parte che è difficile vincere tutto, cioè fare ma per Van Basten non è stato difficile, per Gullit non è stato difficile. Sì. Però è difficile trovare una squadra in grado di vincere tutto e poi scegliere all'interno di quella squadra, bisogna scegliere il giocatore più rappresentativo, anche questo è un criterio, però ripeto e ricordo, sono cambiati appunto i criteri di valutazione. Io continuo a pensarla appunto in maniera molto semplice, e cioè lo darei a quello che nell'annata in corso è stato il giocatore più forte, anche il più incidente nei risultati della sua squadra. Insomma, io non vedo in questo momento pallone d'oro più pallone d'oro di Cristiano Ronaldo in questo momento. Gianpaolo, buonasera. Buonasera, grazie per avermi convocato. Grazie, allora, per io vorrei tornare a parlare di Lega Pro. Ho sentito una gentile ascoltatrice che parlava dell'Entella, sì. Dell'Entella. Sognando un derby Entella-Sampdoria in Serie B da tifoso genuano. Io parlo della mia squadra, della mia città, dell'Aquila, che è tornata nella Lega Pro quest'anno e sta svolgendo un bellissimo campionato. Quello che vorrei però sottolineare questo: voi vi occupate poco, vi occupate troppo di palloni d'oro, di grandi squadre, giustamente lo fate da un punto di vista di audience, lo capisco, perché una radio come la vostra non può non farlo. Però mi rendo conto e vorrei porre alla vostra attenzione quella che è la Lega Pro e quanto sta accadendo per esempio in Lega Pro nel girone B della Lega Pro, dove ad esempio domenica non ci saranno degli incontri perché non ci sarà l'incontro tra la Nocerina e il Lecce, è stata rinviata anche la prossima tra Paganese e Salernitana, che si giocherà addirittura in campo esterno. Sì. Ma soprattutto vorrei parlare di questo fenomeno Lega Pro, che è molto importante per città che si stanno riaffacciando al calcio che conta, e tra queste ci metterei anche l'Aquila. Certo, però lei ha citato delle situazioni che mi fanno pensare che la Lega Pro andrebbe profondamente riformata. Esatto, andrebbe esatto. Profondamente riformata, andrebbe sfrondata da troppi rami secchi che sono lì da molto tempo, esatto. Società che non pagano gli stipendi, per esempio, eccetera. Guardi, perché guardi, io credo che sia un po' il far west del pallone la Lega Pro in questo momento. La Lega Pro può essere veramente il terreno sul quale far rinascere il calcio, ad esempio con la legge per gli stadi. Io sono stato vice sindaco dell'Aquila fino all'anno scorso e mi sono avvalso della possibilità nella ricostruzione della città di rifare nuovi impianti. Tra questi ci sarà un nuovo stadio per il quale alcuni tifosi si lamentano perché ci sta impiegando molto l'amministrazione attuale, non lo sono più io, assessore allo sport e vice sindaco, però voglio dire, si stanno lamentando giustamente per i ritardi, ma noi in effetti all'Aquila stiamo facendo il primo stadio in Lega Pro senza barriere. Ora, è chiaro che sulla Lega Pro si può investire nel calcio che viene fatto qui a livello di giovani, ci sono dei giovani interessanti. Ho capito Gianpaolo, però lei ha ragione, fa un discorso di una correttezza esemplare, però io mi domando: chi è disposto ad investire in un campionato in cui si gioca secondo regole del Far West, in un campionato in cui non si disputano partite, i giocatori fanno quello che della Nocerina, fanno quello che hanno fatto l'altro giorno, in un campionato in cui non c'è certezza del diritto, in un campionato in cui appunto vige la legge del Far West? Poi è ovvio che ci sono singole eccezioni. La mia idea è che bisognerebbe azzerare tutto e ripartire su basi e concetti profondamente diversi, imprenditoriali innanzitutto. Ci fermiamo? Sì, torniamo domani, tutti convocati alle 14. Io non ci sarò, vi lascio Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Ci sarà invece Franco Piantani, autore di questo programma, Roberto Scaltritti in regia. Ciao a tutti. Ma cosa mi dici mai? Let's discuss with the management. Mamma, cosa mi dici mai? Mamma. Tutti convocati.